cielo qualunque, in un mondo qualunque, in un tempo distante, a due passi e poco più da te, al frigorifero vuoto, lo guarda affranto, si chiede cosa farò, cosa farò. Una tizia qualunque in un mondo egoista, nell'era del fallimento morale, sociale, al frigorifero spento, apre l'ante e lo guarda, è buio vuoto come la sua anima, la sua anima. Sono tante le stelle, milioni di milioni, le persone non le svendi sullo scaffale, come uova, cioccolata, come panettoni, sono milioni di milioni da buttare via. Sono tante le stelle, milioni di milioni, le persone non le svendi sullo scaffale, come uova di cioccolata, come i panettoni, sono milioni di milioni da buttare via. Salvarci, il deserto delle città si è svuotato di umanità. Prenditi il tempo che ti occorre per capire che non ti salverà nessuno. Sarà sempre più buio fino a quando, fino a quando, per quanto tempo ancora non si sa. Del centro vende caffè al prezzo di una casa di cemento, al frigorifero pieno, lo guarda soddisfatto, va a dormire sereno, sereno. Una madre di due figli in un mondo egoista non riesce più a stare in pista e lentamente scompare nel nulla. Una madre di due figli si guarda allo specchio e si dispera, nero come la sua anima, la sua anima, la sua anima. Sono tante le stelle, milioni, le persone non le svendi sullo scaffale, come uova di cioccolata, come i panettoni, sono milioni di milioni da buttare via. Possiamo più aspettare, nessuno arriverà a salvarci. Il deserto delle città si è svuotato di umanità. Prenditi il tempo che ti occorre per capire che non ti salverà nessuno. Sarà sempre più buio fino a quando, fino a quando, per quanto tempo ancora non si sa. C'è più tempo e non possiamo più aspettare, nessuno arriverà a salvarci. Il deserto delle città si è svuotato di umanità. Prenditi